posso spegnere la luce, posso chiudere gli occhi, ma in testa ho te, ogni minuto 10 di intocchi. Mantide mi mandi giù come Atlantide, prendi il mio cuore in mano e ci giochi. Uno sguardo tuo è come un destro di Rocky, tutto questo nemmeno mi tocchi. Che è l'amore stesso che ci spara in petto, il corpo oltre il parapetto. Bam. Sarebbe che ti regalo la mia vita, per me non è solo andare a letto. Nah. Lui per convincerti che ti avrà detto, è la settima, mi chiedo se fare effetto. E badia pura, non esiste un modo con cui la sicuro. La pistola carica senza la sicura, 100 all'ora contro il muro senza la cintura. Dalla prima volta che ti ho messa davanti a tutto, perché volevo farti stare sicura. Adesso che mi sembra di ingoiare tintura, e c'è il cuore che mi vaga per le case di cura. Potevi avere chiunque, ma tu hai scelto me. Potevi avere chiunque, ma tu hai scelto me. Potevi avere chiunque, ma tu hai scelto me. Ora sono ubriaco e sono le tre, ti chiamo perché tu sai che sei la mia blu sky. Stanotte sto con lei, ma tu sai che sei la mia blu sky. Sai che non lo capisco, da quant'è che ti conosco. Io non lo so più, me ne accorgo da come ti fisso. Che non mi bastano droghe per tirarmi su, non mi bastano gonne di pizzo per non buttarmi giù nel precipizio. Volano gli anni e l'insulto, ogni volta pensiamo che l'ultima invece è l'inizio. Tutte le troie una specie di vizio, ci perdi il gusto, non calcoli il rischio. Solo placebo, piacere fittizio, voglio che se ne va quando finisco. Non ce la faccio a seguire il copione, né quello che dice il dottore. Se voglio te non va bene un doppione, perché voglio l'oro, non voglio l'ottone. Fuori due gradi, dentro una vasca, noi due infatuati, fatti di weed tatuati, gli ultimi due baluardi. Calculo gli altri, non ci hanno mai svalutati. Tu che sei come ti ho sempre sognata, a volte penso che ti ho disegnata. Questo è il ricordo di qualche serata ubriaca, ora ti chiamo perché potevi avere chiunque, ma tu hai scelto me. Potevi avere chiunque, ma tu hai scelto me. Potevi avere chiunque, ma tu hai scelto me. Ora sono ubriaco e sono le tre, ti chiamo perché tu sai che sei la mia blu sky. Stanotte sto con lei, ma tu sai che sei la mia blu sky. Tu sai che sei la mia blu sky. Stanotte sto con lei, ma tu sai che sei la mia blu sky.